sì, poi non lo so, nel senso, chiaramente noi negli anni, anche rispetto alla carta, ci sono delle cose da aggiustare, da sistemare, anche, non lo so, anche noi ci stiamo interrogando adesso che comunque tanti ci chiedono sta roba qua e dovremo gestirla in qualche modo, no? Nel senso, comunque, no, sicuramente non possiamo replicare quello che abbiamo fatto con Gabriele e con il Leo, perché è veramente dispendioso, no? Metterti lì, redare una carta così. Però vabbè, anche lì quando ci sarà, ci metteremo e ragioneremo su come fare, su che cosa, che tipo di contributo potremo dare, su che cosa. Insomma, è una roba, è un processo che avanza, non lo so.